Con un compagno di Scoop per presentare l'assemblea pubblica di giovedì 15 settembre 2022 alle ore 18 a Scoop, via della stazione Tuscolana 82-84. Ben trovato. Un saluto a Radio Onda Rossa. Intanto grazie per contattarci. Sì, diamo appuntamento, questo forse è un appuntamento per chi segue le nostre vicende. Vogliamo parlare nuovamente di spazi, ma stavolta parlare anche di uno spazio in particolare, quello del Circolo degli Artisti. Lo facciamo alla luce di una situazione che ormai si trascina da un anno, del rischio, ma più che la certezza che il 31 ottobre scadrà la proroga allo sfratto dagli stabili che danno casa in questo momento a Scoop, e nonostante un tavolo di svariati appuntamenti con le istituzioni, con il patrimonio, Sevi e il suo staff, hanno partecipato anche l'assessorato alla mobilità della regione e alla urbanistica del comune. Nonostante questi appuntamenti con personalità anche importanti del quadro amministrativo, non è stato trovato uno spazio pubblico che consentisse la continuità del progetto di Scoop. Un progetto che va avanti ormai dal 2012, dal 2015 nell'attuale sede, e che è semplicemente il riattivare uno spazio abbandonato per creare un luogo di sport, socialità, cultura, come dei diritti da dover rendere accessibili e fruibili alla cittadinanza, quindi sia con una prossimità territoriale, sia con un ragionamento di inclusione e di chiaramente apertura appunto a tutte le fasce popolari d'età, di avere lo sport e la cultura non come una cosa lontana e difficile da raggiungere. E di fronte a tutto questo il Comune ci dice che no, non ci sono spazi. Si parla di una delibera nuova sul patrimonio, si affronta anche tutta la questione degli spazi sociali che hanno ricevuto richieste di risarcimento folli. Non si è capito se questa delibera risolverà quella situazione. Sicuramente non è uno strumento per risolvere il problema di uno spazio che dal basso costruisce queste cose che il Comune non fa, e che ha rispettato, tra virgolette, la sfida dell'essere formalizzato e quindi siamo incomodato d'uso gratuito grazie alla proprietà, e abbiamo provato a seguire questo percorso, però in un anno l'amministrazione non ha trovato ancora niente e quindi noi vogliamo parlare del Circo degli Artisti. Raccontiamo anche brevemente la vostra vicenda, come siamo arrivati a questo punto? Noi siamo arrivati a questo punto da giovani che chiedevano degli spazi nel territorio, quello che va da San Giovanni ad Arco di Trevettino, diciamo, era l'ex nono municipio, ora il settimo, quindi anche un quartiere, un territorio abbastanza a ridosso del centro, con dei costi di vita non indifferenti, ma con il paradosso che mancano dei servizi e la città anche qua non è disegnata a misura di cittadino. Iniziamo nel chiedere alle istituzioni, le istituzioni anche tanti anni fa ormai erano immobili come oggi, e quindi inizia un ciclo anche di azioni dimostrative e di occupazioni che liberano una serie di spazi. Quello che porta l'idea di mettere tutta una serie di servizi anche a disposizione, oltre che il luogo d'aggregazione, avviene a Scoop a Via Nola, immobile che attualmente è abbandonato, è uno scheletro nella città, proprio all'uscita di Via Castrense, l'uscita tangenziale, quindi in tanti lo vedono guidando, ecco. Quello stabile è ora abbandonato, era stato pubblico, è stato privatizzato da Tremonti. Veniamo sgomberati da là, un grosso corteo cittadino che risponde a questa azione violenta da parte delle forze dell'ordine senza alcun intervento dell'amministrazione dell'epoca, che era, se non vado errato, l'amministrazione Marino. Questo corteo occupa gli stabili di via della stazione Tuscolana, un'area totalmente abbandonata da anni, decenni. Questi capannoni vengono ristrutturati con uno sforzo enorme di autofinanziamento, E finalmente nel 2019 ci vengono assegnati in comodato d'uso gratuito dalla proprietà, che poi però 2 anni dopo ci informa che tutta l'area verrà interessata da un progetto di rigenerazione urbana e che quindi noi dobbiamo andare via. Questo progetto di rigenerazione urbana, bene dirlo molto rapidamente, si chiama Reinventing Cities, costruirà di fronte al piazzale della stazione dell'edilizia a 7.000 euro a metro quadro, uno student hotel, questi hotel camuffati da studentato da 1.500 euro al mese a stanza di 30 metri quadri, e la sede dello IED, che è l'Istituto Europeo di Design, una scuola di formazione privata di grande prestigio, ma anche qua siamo certo non nel popolare ma nel lusso, e quindi una trasformazione urbanistica che cancella un'esperienza dal basso e popolare per dare spazio all'ennesima operazione immobiliare a Roma. Questo purtroppo è il cambiamento, come lo chiamano. Ci dai tutti i riferimenti internet per saperne di più? Sport cultura popolare tutto attaccato, sia su Instagram che su Facebook trovate la nostra pagina, che è molto aggiornata. Altrimenti, rispetto alla situazione della stazione Tuscolana, laboratorio di progettazione stazione Tuscolana, e c'è fuori il percorso che abbiamo fatto in rete con comitati di zona e associazioni per quantomeno abbozzare un controprogetto rispetto a quello che vi raccontavo prima. Assemblea pubblica a Roma, a Scoop, via della stazione Tuscolana 82-84, giovedì 15 settembre 2022 alle ore 18. Un saluto e un ringraziamento al compagno di Scoop. Un abbraccio. Grazie Radio Onda Rossa, ciao.